edizione. Ed eccoci pronti a cominciare. Come avete sentito in GR24, c'è davvero molto di cui parlare in questo mercoledì 2 novembre. Però vogliamo cominciare almeno con una buona notizia. Perché devo conciarmi così per andare a fare la corte a due cessi? Oh, queste sono ragazze dalle casse ai diti. Mica il soccole tua. Sei mai stato seduto tra due ragazze? Lunghi, lunghi calorosi applausi davvero, con una gran parte del pubblico anche in piedi. Ieri sera hanno accolto al Festival di Roma la proiezione per il pubblico del film di Pupi Avati, lo sentite, Il cuore grande delle ragazze. Il regista è apparso in salute dopo il malore che lo aveva colpito due giorni fa, ha accolto la manifestazione di affetto del pubblico ieri sera, visibilmente commosso, e commossi anche i suoi attori. Cesare Cremonini al microfono della nostra Marta Cagnola. Entrare in questo mondo che per me è un po' straniero, no? Infatti vi voglio bene perché siete delle radio, siete più amici e più conosciuti da questo punto di vista da me, però è stato un passo emozionantissimo, però che per ora sta ricevendo un'accoglienza molto positiva, e questo per me vuol dire potermi divertire, perché alla fine quello che dobbiamo fare secondo me oggi e nei prossimi giorni è cercare di divertirci e di vivere questa esperienza, almeno per quanto mi riguarda, con l'entusiasmo di un ragazzino, perché è la prima volta per me, quindi sono contento di vivere così questa esperienza. Le 6 e 15 minuti in questo istante, sentiamo come va il traffico. Tra poco lo sguardo ai quotidiani in edicola. Prima edizione. Prontissimi a guardare le prime pagine dei giornali, ma questa mattina il primo titolo che vi do non è di un quotidiano italiano, è del Wall Street Journal. Naturalmente grande attenzione a quel che sta succedendo in Grecia col referendum che spaventa davvero l'Europa, ma c'è spazio anche per parlare d'Italia sul Wall Street Journal di questa mattina. Italia squassata dalle notizie greche, così il titolo dedicato a noi. Il presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi, scrive il Wall Street Journal, ha preso un altro gol sparato dall'esterno. E poi il lungo racconto della difficile giornata di ieri sui mercati e non solo per l'Italia. E allora a questo dedicano ovviamente l'apertura anche i nostri quotidiani. Cominciamo dal Sole 24 Ore questa mattina: vola lo spread, Italia sotto tiro. E poi il Corriere della Sera: crolla la borsa, ultimo avviso di Napolitano, Piazza Affari perde il 6,8%, lo spread tocca quota 459. La Stampa: borse shock, l'Italia deve reagire, crolla la borsa, Napolitano in campo. Anche per il Messaggero, titoli tutti più o meno dello stesso tenore, e sono davvero moltissimi i commenti. Sul Sole 24 Ore, allarme Italia, appello al Sole, fare presto e bene. Giuliano Amato, Romano Prodi, Alberto Quadrocurzio, Paolo Savona: il momento è drammatico, esige l'adozione di provvedimenti immediati e quantitativamente adeguati. Come allontanarsi dal rischio, il dizionario per le famiglie sotto stress. Questa mattina su Sole 24 Ore: le azioni, le obbligazioni, i mutui, i conti bancari, cosa fare, i conti correnti sono garantiti, come funzionano i conti deposito, cosa succede. Così il Sole 24 Ore, perché sono poi molte anche le paure in queste ore. Subito le misure o dimissioni, sempre sul Sole 24 Ore c'è anche la lettera di Confindustria, ABI, ANIA, Cooperative, Rete Imprese Italia. Ultimatum di imprese e banche al governo, decisioni entro il G20. E ormai al G20 mancano davvero pochissime ore, perché domani e venerdì si discute a Cannes. Ancora sul Sole 24 Ore un altro appello: uscire dalla crisi, il manifesto del Sole, l'Europa non deve cedere allo scoramento, serve il colpo di reni, e la firma è quella di Carlo Azeglio Ciampi. Paesi europei uno per uno e l'Europa tutta hanno mezzi, intelligenze, forze per superare l'attuale temperie finanziaria. Così Carlo Azeglio Ciampi. Il Corriere della Sera, anche qui un commento affidato ancora una volta al direttore Ferruccio De Bortoli: fermare la deriva, scrive De Bortoli, si renda subito con un gesto responsabile possibile un esecutivo di emergenza, anche guida di un esponente della maggioranza che concordi con l'opposizione i tempi e i modi per scongiurare il pericolo di un fallimento e l'onta internazionale di vedere il paese con il cappello in mano. Così Ferruccio De Bortoli. Crolla la borsa, ultimo avviso di Napolitano, dicevamo il titolo di oggi, c'è un'immagine di Berlusconi in prima pagina, centro pagina, sul Corriere della Sera l'occhio va alla Grecia, il referendum sugli aiuti, saltano i vertici dell'esercito. La Stampa, anche qui si sprecano i commenti, c'è un dossier, la via d'uscita per i bot people, che cosa possono fare i risparmiatori per evitare lo tsunami, e c'è anche una notizia curiosa, perché mentre l'Europa traballa c'è chi ancora in Europa invece vorrebbe entrare. La rinascita della Serbia passa dall'Unione Europea. La Stampa oggi, viaggio nel paese che vuole chiudere col passato e prepara il via ai negoziati per entrarci invece in Europa. Il Messaggero, anche qui dicevamo crolla la borsa, è il primo titolo, ma a centro pagina si va un po' al sodo di cosa potrebbe arrivare. Rispunta l'ipotesi condono, vertice da Berlusconi, telefonata alla Merkel, rispetto degli impegni, così il Messaggero. Ci sono anche altre notizie, questa naturalmente domina ampiamente le prime pagine e anche le pagine interne, però sui quotidiani c'è ovviamente anche altro. Allora, restiamo sul Messaggero, parliamo di cinema, l'abbiamo sentito anche noi poco fa dalla nostra inviata Marta Cagnola. Avati torna e conquista il pubblico, ma i ministri agitano il festival. Parliamo del Festival del Cinema di Roma, ieri sera è apparso Pupo Avati, ma è apparso anche il ministro per i beni culturali Galan e Alemanno e il sindaco Alemanno, ed è stata anche un po' di schermaglia politica a margine del Festival del Cinema di Roma. La Stampa, l'immagine in prima pagina non la dedica alla politica, fa una scelta diversa quest'oggi. Luci, acrobazie, Torino accende il Natale, un funambolo sulla folla di Piazza San Carlo per il lancio dei neon d'autore delle festività. Siamo già anche in temi natalizi sui quotidiani quest'oggi. Altre curiosità dal Corriere della Sera invece taglio basso: se le cellule umane ringiovaniscono, ebbene sapete che è successo, che è stata sperimentata l'inversione del processo di invecchiamento, vale a dire che all'Università di Montpellier sono riusciti a riprogrammare in vitro le cellule di uomini e donne tra i 75 e i 100 anni e le hanno trasformate in staminali, in sostanza in cellule che ringiovaniscono anziché invecchiare. E poi ancora ultima segnalazione sempre dal Corriere della Sera: bocciati e promossi gli aspiranti presidi, ricorderete quelli dei test, dei quiz sbagliati, ora litigano sul concorso, così sul Corriere della Sera. I quotidiani naturalmente, poi con Alessandro Milan alle 7:20 andrete anche nelle pagine interne, c'è molto altro di cui raccontare, però torniamo anche all'attualità di queste ore. C'è preoccupazione di nuovo e non di poco conto, parole queste non nostre ma del capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, che ha avvisato così della nuova perturbazione attesa per domani sulle zone alluvionate di Liguria e Toscana. La questione vera, ha detto, è la capacità per questo territorio di essere pronti. Allora, noi torneremo ancora con prima edizione in questa zona, domani monitoreremo anche la situazione pioggia, oggi però vogliamo raccontarvi una storia di solidarietà tra chi ha conosciuto l'alluvione. E allora io saluto il presidente degli industriali di Vicenza, Roberto Zuccato. Buongiorno a lei. Che tra l'altro in queste ore non è in Italia, voi vi trovate in India? Sì, siamo in India con la missione di sistema col ministro Romani e di Confindustria. Anche da lì però l'occhio è sempre verso l'Italia, perché avete deciso come industriale di Vicenza di dare un aiuto alle popolazioni e alle imprese del Levante Ligure e della Lunigiana colpite dalla drammatica alluvione di questi giorni. Avete lanciato una raccolta di beni di prima necessità ma anche di contributi economici per gli alluvionati. Questa volta siete dall'altra parte, per questo avete deciso questa iniziativa? Sì, io perché ritengo che nessuno più di noi possa capire lo stato d'animo in questo momento in cui si trovano le popolazioni che sono state colpite. Noi esattamente un anno fa abbiamo avuto il dramma dell'alluvione e sono stati momenti veramente drammatici. E quindi abbiamo deciso subito di lanciare questa sottoscrizione di aiuti in generale o anche finanziari per aiutare queste popolazioni a risollevarsi. Ci sono imprese, persone, famiglie che come noi si sono trovate improvvisamente in un consentimento di disperazione, chiamiamola così, perché i primi attimi vi assicuro che sono veramente drammatici. E quindi c'è bisogno di far sentire la vicinanza di tutti in quei momenti, e credo che noi che per primi poco tempo fa abbiamo vissuto questo stato d'animo, penso sia importante che ci attiviamo immediatamente. Sono sicuro che la proverbiale generosità e disponibilità delle nostre genti venete, vicentine in particolare, ancora una volta dimostri quanto sia importante la solidarietà, e quindi mi auguro che questo invito alla sottoscrizione venga accolto immediatamente e con grande attenzione. C'è chi dalle vostre parti è ancora alle prese con quel che quell'alluvione ha causato. Siete già pronti ad aiutare qualcun altro? Ma certo, senz'altro, perché vede, c'è chi è più fortunato, che è riuscito a non essere colpito, ma sono sicuro che anche chi è stato colpito troverà energia e risorse per aiutare gli altri. Noi abbiamo avuto uno straordinario segnale di solidarietà in quei momenti. Abbiamo avuto tutti che si sono mobilitati, anche i nostri ragazzi, gli extracomunitari che lavorano con noi, ed era veramente commovente vedere come si mettevano in fila per aiutare chi aveva bisogno. E questo è stato un momento toccante, perché abbiamo capito che anche investire sulle persone, sulla solidarietà, poi c'è sempre un ritorno. In questi momenti abbiamo capito quanto chi lavora con noi fa parte integrante della nostra società, del nostro territorio. I vostri colleghi delle Cinque Terre della Lunigiana magari in questi momenti fanno fatica a credere che ci si possa riprendere. Che consiglio gli date? Ma di non cedere. I primi momenti sono davvero i più difficili. Sembra che di aver perso tutto e che sia impossibile ricominciare. Invece noi abbiamo dimostrato con l'orgoglio, con la volontà, che in poco tempo avevamo rimesso tutto in attività nuovamente. Chiaramente i danni sono rimasti, le spese sono rimaste, ed è per questo che c'è bisogno della solidarietà di tutti. Però loro per primi devono farsi forza, non lasciarsi andare alla disperazione. Siamo popoli abituati da sempre a combattere, che siamo fatti la nostra, il nostro benessere ce lo siamo costruiti con le nostre mani. In questi momenti difficili non bisogna perdere questo stato d'animo, bisogna lottare e combattere. Chi vuole partecipare alla raccolta, magari ricordiamolo, con chi si deve mettere in contatto? Beh, se si vuole offrire dei beni di aiuto, abbiamo visto che sono state distrutte le case all'interno, quindi dei mobili, degli aiuti anche fisici e materiali, basta chiamare la nostra associazione, Associazione Industriale di Vicenza. E altrimenti si possono fare delle donazioni. Noi abbiamo messo a disposizione un conto corrente, se vuole l'IBAN per il bonifico. Comunque so che di solito ci penseremo a Radio 24 anche noi a rilanciarlo sicuramente, e poi ci terremo in contatto, ci direte anche come sta andando la raccolta. Sì, è estremamente importante per infondere coraggio. Grazie nel frattempo la lascio tornare già al lavoro. Grazie Roberto Zuccato, presidente degli Industriali di Vicenza, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata a tutti voi. Prima edizione. E lo spazio, come ogni mattina, questo è quello per le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. È 2 novembre, buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Quanti sono i beni sequestrati, confiscati alle mafie? Dove sono dislocati? Quali sono le difficoltà nell'assegnazione a cooperative, associazioni e amministrazione pubblica dei beni di proprietà di mafiosi? Il reportage di Raffaella Calandra. Strappati ai mafiosi e a volte dimenticati. Dimenticati sotto il peso delle ipoteche bancarie e della burocrazia, logorati dal tempo o dalle difficoltà, e sottoposti ora anche ad ulteriori rischi contenuti nel nuovo codice antimafia. È la storia, a volte triste, dei beni confiscati alle mafie, il frutto di una delle migliori leggi nella lotta ai clan, che a volte però rischia di rimanere una grande intuizione difficile da mettere in pratica. 9.198 immobili tolti ai boss, 1.223 aziende, grandi numeri che potrebbero tradursi in altrettante restituzioni alla società civile, ma l'ipoteca bancaria, ad esempio, pende attualmente sulla metà di questi beni, come denuncia Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Un segno importante della confisca è la restituzione alla collettività. I cittadini devono sentire che è ritornato loro il bene, perché quei beni erano frutto di violenza, di traffici, di illegalità, spesso anche di morte. Questo non è possibile nel quasi 50% dei beni confiscati, sono sotto ipoteca bancaria. Allora noi lo chiediamo, che si sblocchi questa situazione. Tra l'altro mi chiedo chi ha fatto l'ipoteca a certi personaggi nel nostro paese. ci sono situazioni di buona fede, ma tantissime non sono situazioni di buona fede. E quindi abbiamo una paralisi di tanti beni che sono lì, che non possono essere utilizzati. Le banche, salvo delle eccezioni che loro hanno liquidato questa situazione permettendo l'utilizzo, ma sono delle eccezioni, non è una regola. Tocca alla politica, tocca al mondo delle banche trovare una soluzione per restituire veramente. Sarebbe un segno di grande valore, di grande importanza e di grande efficacia. A quasi 30 anni dall'omicidio di Pio La Torre e quindi poi dalla legge che porta il suo nome insieme a quello di Virginio Rognone, questa è una legge che funziona ma che ogni tanto sottoposta ancora anche dei rischi, come vediamo, cioè di essere un po' annacquata. Fu l'intuizione di Pio La Torre che non la vide perché fu ucciso 4 mesi prima, non funzionò da questo punto di vista la legge per tanti anni, furono solo 70 beni confiscati. Quando nasce dopo le stragi di Capaci, di Via D'Amelio Libera, noi abbiamo raccolto 1 milione di firme per renderla più veloce, più efficace e l'uso sociale di questi beni. Dei passi in avanti si sono fatti, anche con la proposta di questo governo attualmente in carica e l'apertura dell'agenzia per i beni confiscati, si è dato più ordine, più chiarezza, ma non è ancora sufficiente. Italia contro luce, prima edizione, torniamo oggi 13.30 con nuovi reportage su Radio 24. Grazie come sempre a Daniele Biacchessi, ancora una buona giornata anche da Anna Migliorati in questo mercoledì 2 novembre. Cominciamo parlando di quello che è il tema inevitabilmente di queste ore. Cominciamo a capire quali sono le intenzioni di Atene. La Grecia, innanzitutto, diciamolo subito, va avanti perché nella notte il governo greco ha deciso all'unanimità di appoggiare la proposta di referendum sulle misure anticrisi che era stata avanzata dal premier Papandreou. Il referendum greco, hanno promesso, avverrà il prima possibile, non appena sarà formulato il piano d'aiuti, ma tant'è, il referendum si farà. Il ministro delle finanze giapponese ha definito sconcertante la decisione, è stato il primo a commentare, arriveranno tutti i commenti nella mattinata. L'appuntamento è a Cannes tra Draghi, la Merkel, Sarkozy e poi arriverà anche Papandreou, che a quel punto dovrà spiegare il perché di questa decisione, ma intanto noi vogliamo già provare a capirlo e allora io saluto Vittorio Darold, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, nessun passo indietro, si va avanti, la Grecia decisa nonostante l'annuncio ieri abbia provocato una tempesta che sembra davvero non avere fine. Allora, la prima domanda che ti facciamo è: perché questa decisione di Atene? Perché Atene non si ferma e va avanti con la sua iniziativa? Dunque, innanzitutto il ricorso alla consultazione popolare in Grecia è un fatto rarissimo. L'ultima volta risale al 1974. Per il passaggio dalla monarchia alla repubblica. Io penso che il motivo per cui Papandreou, che da 2 anni e mezzo naturalmente sta cercando di in qualche modo convincere la sua popolazione che è corretto farsi aiutare dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario in cambio di riforme strutturali, lo ricordiamo, molto impopolari perché sono stati tagliati del 20% i salari, 20% le pensioni, ci saranno 30.000 dipendenti pubblici da... E ricordiamo che il referendum greco chiederà questo ai greci: volete tutti questi tagli? Esattamente, cioè è un referendum sull'austerità. Allora è questo il vero problema, ma Papandreou, a mio parere, ha deciso di fare questo perché è da mesi attaccato dall'opposizione di centrodestra che lo accusa di aver svenduto il paese agli stranieri, cioè di aver ceduto la sovranità popolare. Allora, per un motivo di politica interna, Papandreou ha fatto questa scelta che costringe l'opposizione a uscire allo scoperto e a dire con un sì o con un no se sta con l'Europa oppure no. Quindi questo è il vero problema, che l'Unione Europea resta sempre legata a posizioni di politica interna. Si decide nei vertici, nei consigli, il salvataggio della Grecia, l'abbiamo visto mercoledì 26 ottobre. Ma poi ogni governo deve fare i conti in casa propria. Esattamente, direi che in questo momento gli unici che hanno saputo in qualche modo uscire da questo problema sono stati gli spagnoli, dove l'opposizione e il governo Zapatero hanno trovato un accordo, hanno deciso di andare a elezioni anticipate, ma hanno approvato tutte quelle misure di austerità insieme. Questa probabilmente è l'unica occasione, l'unica volta in cui in Europa si è avuto questa capacità di unire un paese. Esattamente. Dirò una cosa che sicuramente sulla quale sicuramente i mercati non saranno d'accordo con me. Tokyo in questo momento, ti dico, perde l'1,82%. Questo referendum sta squassando veramente anche tutti gli altri paesi e noi per primi. Però in un certo senso non è anche una richiesta di responsabilità per i greci molto forte? Non volete queste misure? Andiamo tutti quanti allo scatafascio. Certo, pensare di essere in mano ad un referendum greco fa davvero paura, però forse i greci dovranno assumersi la responsabilità. Sì, effettivamente questo è vero, è un sistema assolutamente democratico, un sistema, probabilmente la democrazia diretta, nata proprio ad Atene poi, ma il vero problema è che questo si terrà ai primi di gennaio del 2012. È possibile continuare ad avere un'incertezza di questa misura, di questa entità? Ricordiamolo, il debito greco è di 357 miliardi di euro, cioè è 5 volte quello che fece il default nel 2001 l'Argentina. In più ci sono i derivati. Nel caso in cui i greci dicessero no al piano, nel giro di pochi mesi la Grecia sarebbe default immediatamente. Immediatamente l'Europa, il tuo lapsus è non a caso, nel senso che veramente siamo nelle mani dei greci e di questo referendum. E i tempi stringono, e tu ce l'hai ricordato. Nella notte, dicevamo, comunque la conferma è arrivata. Per il momento Atene vuole andare avanti, Papandreou andrà al G20, vediamo se gli faranno cambiare idea. Ci sentiremo sicuramente ancora in giornata con GR24. Grazie Vittorio D'Arold. Grazie a voi. Questo è il versante greco e l'Italia è davvero come la Grecia. Sicuramente restiamo sorvegliati speciali e con quello che è successo ieri non c'è dubbio. Però ci sono anche, dicevamo prima con Vittorio D'Arold, ogni paese poi deve fare i conti anche con la sua situazione interna, e questo vale anche per noi, vale anche per l'Italia. Allora noi invece cosa vogliamo fare? Saluto anche Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io ti leggo dal Sole 24 Ore di questa mattina. Gli spread sono mai vicini a un punto di non ritorno, e ancora una volta lo ribadiamo e cerchiamo di far capire perché questi spread sono così importanti, perché il punto oltre il quale l'avvitamento verso un'insostenibilità del debito diventa davvero irriparabile. Scrive oggi Sole 24 Ore: quello che stiamo facendo è che stiamo puntando sull'arrivo di una cavalleria di salvataggio, sia essa da Bruxelles, dalla Cina, dal G20 di Cannes, ma rendiamoci conto, la cavalleria non arriva. Partiamo da qui, sei d'accordo? Anche noi dobbiamo fare qualcosa a questo punto? Ma sicuramente tutto dipende appunto da quanto la nostra classe politica riesce a mettere su. Insomma, ci vogliono dei provvedimenti, sono urgenti, li aspettiamo da mesi e assistiamo invece a un rincorrersi di vertici che preannunciano vertici. Si concludono in genere, dopo queste lunghe coazioni a ripetere, nulla di fatto. La crisi è già nota da un anno e siamo qui a leccarci le ferite. Io l'ho definita una crisi di sistema, perché a fronte di un centrodestra che implode c'è un centrosinistra che è capace solo di dire Berlusconi vai a casa, perché vogliono prendere il suo posto. E dunque la situazione è molto grave, siamo in un impasse, in un cul-de-sac politico istituzionale, di governance del paese. Sei d'accordo con quello che diceva prima Vittorio D'Arold? Gli unici che in realtà hanno dimostrato davvero compattezza sono stati gli spagnoli fino ad ora? Sì, sebbene anche lì dopo i primi entusiasmi i numeri dell'economia non abbiano poi confermato quella tesi secondo cui andare al voto sarebbe stato salvifico, però certamente hanno dimostrato maggiore lucidità e maggiore senso dello Stato, Zapatero senz'altro. Devo dire peraltro che sulla questione del referendum della Grecia io ho un'idea un po' diversa, cioè credo che comunque i popoli coinvolti in questo fattaccio e magari innocenti dal punto di vista delle responsabilità o corresponsabili ma di decisioni che vengono prese da gruppi ristretti di banchieri come nel caso dell'euro, hanno il diritto di dire la loro, anche se capisco che un referendum rompe le scatole e provoca il terremoto che ha provocato, con reazioni che si diffondono in tutto il mondo ad alta velocità come i tempi e le tecnologie consentono, però possiamo pretendere che si continui a mettere la sordina alla gente normale, diciamo. E a far decidere ad altri cosa fare. Ecco, peraltro altri non legittimati da alcun voto popolare, ricordiamocelo, la BCE è un istituto, un organismo tecnico. Dobbiamo ragionare su questo. Non a chi affidare l'uscita dalla crisi? Prima edizione. Antonio Angelo Perrino, direttore Affari Italiani. Abbiamo tempo ancora per un'ultima battuta. Dicevi prima, la BCE non è un organo eletto, quindi siamo sicuri che proprio da lì deve passare la soluzione. Io ti ribalto in un altro modo. Deve davvero passare dall'imbuto stretto della decisione nuovo governo, non un nuovo governo, elezioni, non elezioni, la soluzione italiana? Sì, anche qui io ho l'impressione che i tempi tecnici siano oramai evaporati, cioè non si può mettere in crisi un governo, e rimango sconcertato quando apprendo che nel vertice di ieri sera, che doveva essere decisivo, il ministro Tremonti ha chiesto a Berlusconi di dimettersi. Cioè, balliamo sull'orlo di un precipizio, abbiamo minuti. Quello decisivo pare sia oggi. Appunto, e loro continuano è come un lungo Titanic, insomma, e non credo, io penso che a questo punto ha ragione Napolitano, bisogna fare con quel che c'è un governo, sospendiamo le ostilità, riprendiamo la lotta politica tra qualche mese, fingiamo che sia un governo tecnico, inseriamo nella manovra le cose che si ritiene possibili, facciamo tutti uno sforzo, una specie di armistizio, ma si faccia un disarmo bilaterale e facciamo le misure indispensabili per fronteggiare una crisi che rischia davvero di travolgerci, di travolgere l'intera classe politica, ma anche il lavoro e i risparmi degli italiani. Ma anche tutti noi, insomma. Sì. Grazie Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, per essere stato con noi. Buona Grazie giornata. Buongiorno. Alessandro Milan. Buongiorno, eccoci buongiorno. Qua. Buongiorno. Ma guarda, diventa difficile dirlo ormai. È il 2 novembre, d'altronde. Vabbè. Anche dai giornali. Abbiamo scelto anche i giorni giusti. Anche dai giornali, ovviamente, ci concentreremo su quello che qualcuno sintetizza così: viene giù tutto. Non si capisce bene che cosa, ma insomma, la situazione è difficile non solo in Italia, ma anche in Europa. E poi ci sono tante storie dai giornali, per esempio. Tu hai risposto alle 8 domande di Cameron, il premier britannico, che no, vuole sapere, mi sono assolutamente sfuggita, che vuole sapere dagli inglesi se siano davvero felici. Beh, loro l'euro non ce l'hanno innanzitutto, ah, no, già. Non è una delle 8 domande. Cioè, le geniali domande di Cameron sono: sei soddisfatto della tua vita? Sei soddisfatto di tua moglie o di tuo marito? Che voto dai alla tua salute mentale e fisica? E sono le prime tre di 8 domande alle quali tutti gli inglesi dovranno rispondere. Il nuovo indice per sapere quanto è felice un paese, visto che a guardare nelle tasche c'è, siamo queste un po' 8 tristi. Domande. Vabbè. Va bene, grazie Alessandro Milan. Naturalmente poi ti risentiamo come sempre a 7:20 con la rassegna stampa. Peter Bescapè, Viola Bottoni sempre qui. Noi ci risentiamo tra pochissimo già con GR24. Una buona giornata da Anna Migliorati.